Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi e Chiara Albicocco. È sabato sera e Mebius è qua. E ciao, noi siamo Chiara. Qua. Ciao Federico, buonasera a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici. Cominceremo con Internet sotto il mare. Cominciamo così e poi andiamo avanti parlando di medicina di precisione, di radioterapia a base di boro. Come nacque la bicicletta che usiamo oggi e le mappe del metrò è una delle tante storie raccontate in un libro. Via. Cominciamo, via! Via, via, via. Ma le mail che arriveranno da sotto il mare saranno bagnate rovineranno, sì, il computer. Ecco. Esatto. Io lo so. Ecco. Diciamo che hai fatto un bel riassunto per quello che è il progetto Sunrise, dove invece ci stanno investendo tantissimo, sia la NATO, sia tantissimi centri di ricerca e università. Qui con noi stasera c'è la coordinatrice di questo progetto, Chiara Petrioli. Buonasera. Buonasera. Benvenuta. Lei è docente di informatica all'Università La Sapienza di Roma ed è coordinatrice di questo progetto Sunrise. Federico ha un po' scherzato all'inizio, però insomma quello di cui ci vogliamo occupare, vogliamo raccontare è questo appunto internet subacqueo, cioè internet sotto gli oceani, sotto i mari. È possibile? Come è possibile? È possibile e l'idea è il risultato di una visione diversa, quella di portare più che l'internet, è l'internet delle cose, questa nuova rivoluzione industriale che ci permette di connettere decine di miliardi di dispositivi e il futuro sarà sempre più connesso con tutti i dispositivi attorno a noi che sono in grado di dialogare, cooperare, rendendo più sicure le nostre città, gli ambienti attorno a noi, più intelligenti e quindi aumentando il comfort delle persone. Ecco, questa stessa visione, questa capacità di monitorare il mondo attorno a noi, di far comunicare e quindi cooperare vari dispositivi, la stiamo portando con Sunrise in ambito marino. È essenziale in tutta una serie di ambiti, dall'estrazione delle materie prime, petrolio, gas naturale, minerali, a quelle che possono essere anche, diciamo, modi sostenibili di alimentare una popolazione sempre più vasta, diciamo, nei prossimi decenni. No, l'acquacultura è sempre più importante. Lei dice questo perché, diciamo, lo scopo del progetto potrebbe essere appunto quello del monitoraggio, il monitoraggio ambientale, il monitoraggio degli oceani e dei mari. Però una cosa la dobbiamo dire, lei ha parlato di internet delle cose, noi ci aspettiamo insomma che negli abissi marini o sui fondali del Mediterraneo non è che ci siano tanti oggetti da connettere, forse li dovete mettere? Pensate a sensori, sì, diffusi, esatto, connessi. Stiamo sviluppando all'interno del progetto Sunrise, innanzitutto sviluppiamo, diciamo, tecnologie, reti di sensori, quindi nodi sensori a basso costo sottomarino in grado di monitorare più parametri nel tempo, in continuo, in ambiente marino. E anche sempre soluzioni, dispositivi di robotica marina, quindi quelli che si chiamano Autonomous Underwater Vehicles, veicoli autonomi sottomarini. Una specie di drone sottomarino. Drone sottomarini, sempre con l'obiettivo di consentire a questi dispositivi di monitorare più parametri, nel caso dei droni sottomarini, anche in spazi ampi e andando a fare un survey di queste aree ampie nel tempo, puntando a tecnologie che possono essere a basso costo e fornire questa capacità di monitoraggio pervasiva dei nostri mari. Ecco, ma senta, noi siamo abituati sulla Terra ad avere connessioni che ci arrivano col cavo, wifi e cose di questo genere. Si può trasportare tutto sotto il mare, diciamo l'ambiente diverso, il fluido non influisce sul fatto che ci sia una trasmissione dei segnali in wifi, per esempio? Esatto, abbiamo delle grosse problematiche nel trasportare quello che siamo abituati a utilizzare nel mondo terrestre in ambiente marino. Il wifi, ad esempio, non può essere utilizzato in ambito marino perché le onde radio, alle frequenze che utilizziamo per il wifi, si attenuano fortemente nella trasmissione in acqua, quindi raggiungerebbero qualche decina di centimetri. Qui invece abbiamo delle reti cui i dispositivi, possiamo immaginare, spesso sono distanti chilometri. Quindi dobbiamo imparare dai mammiferi marini che hanno sviluppato la capacità di comunicare dai sonar dei cetacei. Esatto, quindi utilizziamo per la comunicazione a lunghe distanze la trasmissione acustica, quindi le onde acustiche sono in grado anche di raggiungere vari chilometri o decine di chilometri e quindi questo è il modo principale di comunicare nell'ambiente marino. Stiamo poi anche testando la possibilità in scenari in cui la comunicazione debba avvenire fra dispositivi più vicini, qualche decina di metri, di utilizzare la comunicazione ottica. Senta però, sono state fatte diverse ricerche negli ultimi 20 anni per quanto riguarda l'emissione di segnali sonori, per esempio quelli emessi da sommergibili che possono disturbare fortemente per esempio i cetacei. Non c'è questo problema in questo progetto? Nel caso dei sonar abbiamo l'emissione di grandi quantità, diciamo con grande potenza delle onde acustiche. Noi invece operiamo con delle potenze più ridotte, abbiamo sviluppato dei sistemi di rete intelligente che autoapprendono con tecniche di intelligenza artificiale il modo migliore di operare, sia per massimizzare le prestazioni ma anche per evitare problemi di questo tipo, e quindi dinamicamente si spostano su un'altra frequenza. La comunicazione acustica ha tutta una serie di problematiche, ci consente di raggiungere distanze elevate ma ha una velocità di trasmissione del dato molto più bassa di quella che siamo abituati ormai ad avere, è minore di quella dei modem degli anni 80, qualche decina di migliaia di bit al secondo. È un po' scarsa, quindi dobbiamo essere in grado di comprimere molto le informazioni che trasmettiamo. D'altra parte crea il backbone, crea la capacità di comunicare su lunghe distanze. La comunicazione ottica porta la possibilità di raggiungere le velocità di trasmissione del dato a cui siamo abituati, quelle del Wi-Fi, per distanze corte anche nell'ambiente marino. Quindi ci aspettiamo delle applicazioni su aree, diciamo, non enormi, non dobbiamo pensare al cablaggio dell'intero oceano, ma magari di zone circoscritte in cui si vuole cercare qualcosa, oppure c'è stato sversamento di materiale, quindi si va a vedere com'è la situazione ambientale, un po' così. Più localizzate. Ci sono due contesti applicativi diversi. Uno, siamo in grado di monitorare delle aree limitate, quando parliamo di aree limitate parliamo magari di qualche decina di chilometri di lato, in cui possono essere facilmente dispiegati droni, nodi sensori sottomarini collegati con delle reti. E quindi la rete da una parte permette la copertura di aree ampie, dall'altra dà l'affidabilità. A livello di rete, cambiando il percorso, siamo in grado di comunicare in maniera affidabile l'informazione, cosa che con una singola coppia di dispositivi non saremmo in grado di fare. Quindi da una parte queste reti di sensori su aree limitate, dall'altra diamo la possibilità ai robot sottomarini, ai droni che possono, possiamo pensare a attraversare l'oceano e fare un campionamento dei nostri mari nel tempo, di lavorare in team, quindi comunicare fra di loro, cooperare e quindi svolgere dei compiti più complessi insieme. Velocissima in conclusione sulle applicazioni, perché abbiamo parlato di tutta la parte, diciamo, di monitoraggio che può essere utile ad esempio per trovare reperti archeologici appunto sottomarini, oppure per vedere se c'è stato sversamento di materiale tossico e così via. Volevo capire se c'era anche possibilità di applicarlo ad esempio nelle rotte del Mediterraneo per poter identificare ad esempio gli spostamenti di barche, di barconi illeciti, illegali, così appunto da contrastare anche il traffico umano. Potenzialmente con una rete che probabilmente, diciamo, è uno degli ambiti applicativi da studiare, nel senso potremmo immaginare di avere delle barriere di nodi sensori sottomarini che ci danno delle informazioni anche sui nostri confini marittimi, in probabilmente una sinergia fra quello che è sotto il mare e quello che è sopra, quindi mi posso immaginare per questo contesto applicativo una sinergia di droni e barriere di nodi sensori sottomarine e di droni aerei. Va bene, grazie Petrioli, buona ricerca, insomma ci faccia sapere come va il progetto. Grazie, a presto, arrivederci. E sulla terra come va il traffico? Index protegge e risana edifici in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it vi presenta Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Ne sentiremo sempre più spesso parlare, medicina di precisione, e quello di cui parliamo adesso è uno dei tanti casi, delle tante direzioni nelle quali andrà questa nuova forma di medicina. Radioterapie non convenzionali, vi racconta questa cosa Chiara. Qualche settimana fa all'Università di Pavia, e in particolare al Museo della Scienza Elettrica dell'Università di Pavia, ho incontrato Nicoletta Protti. Ho deciso di raccontarvi la sua storia perché quella sera mi colpì. Era una sera in cui donne di scienza si raccontavano e raccontavano le loro ricerche. Io ho incontrato Nicoletta, che è giovanissima, ha 31 anni, quindi la introduco e le darò del tu proprio perché è giovanissima. Ciao Nicoletta, benvenuta a Mebius. Ciao, grazie mille dell'invito e buonasera a tutti gli ascoltatori. Allora, io mi permetto insomma di darti del tu proprio perché sei giovanissima e ci siamo conosciute. Tu sei fisica e in questo momento stai lavorando sia al Dipartimento di Fisica dell'Università di Pavia, ma anche alla sezione di fisica dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare. Ecco, lì io ti ho conosciuto e ho capito che insomma hai delle grandi potenzialità. Adesso ti faccio raccontare in che ambito insomma lavori e ricerchi, però c'è da dire che tu l'anno scorso, nel 2015, hai vinto il premio L'Oreal UNESCO for Women, che è una grande borsa di studio che viene assegnata a delle ricercatrici donne italiane. E adesso lascio raccontare a te che tipo di ricerca stai facendo. È una ricerca molto particolare che mette insieme elementi di fisica, quindi microparticelle, con le terapie per la cura dei tumori. Esatto. Io mi occupo di un campo estremamente multidisciplinare, come hai detto tu, in quanto lavoro sullo sviluppo di nuove forme di radioterapia, quindi possiamo chiamarle radioterapie non convenzionali. In particolare io lavoro su una radioterapia basata sull'irraggiamento con delle particelle subatomiche, quindi dei costituenti elementari degli atomi di tutti gli elementi presenti in natura e che compongono anche i nostri corpi, che si chiamano neutroni e che si trovano all'interno appunto del nucleo di tutti gli atomi. E in questa mia terapia l'idea è di combinare l'irraggiamento del volume tumorale, quindi della massa malata che vogliamo eradicare, con questi neutroni, dopo aver arricchito questa massa tumorale attraverso una medicina opportunamente sviluppata da chimici e farmaceutici, che contiene un altro elemento, un altro ingrediente particolare ben specifico, che è il boro 10. Difficile da spiegare, esatto. Però se ci dai qualche indicazione. Assolutamente sì. Allora, il boro 10 non è altro che un elemento, quindi se noi prendiamo la tavola periodica troviamo la casellina che si chiama boro. Io lo chiamo boro 10 perché dovete sapere che tutti gli elementi in natura, diciamo, non sono un singolo elemento, ma sono una famiglia, diciamo, di fratelli più o meno gemelli che cambiano per le loro proprietà a livello appunto nucleare, quindi per il numero di neutroni e protoni che troviamo all'interno dei singoli nuclei. Quindi sono tutti bori, ma ci sarà il boro 10, che è quello che interessa a me per la mia terapia, e poi ad esempio ci sarà il boro 11, che pur essendo praticamente gemello del boro 10, per la mia terapia non va bene, perché a livello fisico l'interazione del neutrone con il boro 10 porta ha un determinato effetto che adesso vi racconterò, cosa che invece non accade con la stessa, diciamo, probabilità, con la stessa enfasi, quando io uso ad esempio il boro 11 invece che appunto il boro 10. Allora, vediamo se ho capito bene. La persona, insomma, malata, il paziente, dovrebbe prendere un farmaco, giusto? Che, diciamo, faccia da catalizzatore a quello che succederà dopo. Cioè, nel momento in cui poi voi introdurrete in qualche modo la terapia, la radioterapia con il boro, a quel punto il boro 10 andrà proprio ad agire dove quella medicina è stata assorbita. È un po' così? Esattamente, esattamente. Possiamo chiamarla anche chemioterapia attivata. Quindi l'idea è che noi introduciamo un farmaco, chiamiamolo tra virgolette chemioterapico, quindi che va ad accumularsi selettivamente nel tumore. Sì. Poi lo attivo, cioè letteralmente accendo tra virgolette la molecola contenente il boro 10, quindi la molecola della mia medicina, quando vado ad irraggiare con il neutrone. Quindi il neutrone diventa una particella che fa da accensione, come la fiamma per una dinamite. Accende la mia medicina con il boro 10 e questa accensione mi permette appunto di distruggere solo localmente, dove c'è stato l'accumulo del boro 10, il tessuto e quindi le cellule tumorali che voglio andare appunto ad eradicare. Ecco, questo tipo di terapia rientra un po' in quella che noi chiamiamo medicina di precisione, proprio perché, diciamo, un po' il futuro di queste terapie sarà riuscire, diciamo, non a bombardare tutto il corpo, un po' come avviene adesso, ma cercare in qualche modo di andare a colpire soltanto le cellule malate, un po' così? Esattamente, è esattamente questa la caratteristica principale della mia terapia, che per, diciamo, completezza si chiama in inglese boron neutron capture therapy, in italiano tradurremmo con terapia per cattura neutronica con boro, proprio perché noi fisici chiamiamo reazioni di cattura neutronica quelle interazioni per cui il nucleo, in questo caso di boro 10, interagisce, cioè letteralmente assorbe, mangia il neutrone quando questi si trovano nella stessa posizione, nella stessa regione del corpo del paziente, e questo incontro innesca, proprio come dicevo prima, a mo' di dinamite, una piccola esplosione con cui viene liberata un'energia molto alta ma localizzata, e che quindi mi permette di danneggiare solo lì dove è avvenuta l'esplosione, e lì è proprio la cellula tumorale. Ecco Nicoletta, noi sappiamo che l'iter, insomma, per rendere poi fruibili queste terapie sono molto lunghi e complicati. Ci dai un'idea di quali sono, non i tempi, ma insomma a che stadio della ricerca sei? Allora, io col mio gruppo qui a Pavia sono ad uno stadio che possiamo definire preclinico, quindi noi ci stiamo ancora occupando di tutti quei test per provare l'efficacia e la fattibilità di questa terapia, nel senso che sviluppiamo in collaborazione con gruppi di chimici, di biologi, sia a Pavia che in altre università, la medicina contenente il boro 10 innanzitutto, poi la andiamo a testare in vitro, cioè solo su cellule, quindi praticamente si estraggono delle cellule particolari di tumore piuttosto che di tessuti sani, li si fa crescere in modi particolari per cui queste vivono anche all'esterno di un organismo vivente, e si testa la tossicità e la selettività con cui queste nuove molecole vengono assorbite dalle cellule tumorali piuttosto che dalle cellule sane, che fanno un po' da controparte nella nostra terapia. Finito questo step che chiamiamo in vitro, si passa allo step in vivo, in cui è un po' più complicato perché nel momento in cui sappiamo la molecola va bene, non è tossica e si accumula selettivamente, allora ci chiediamo, quando io prendo un animale, ad esempio un piccolo topolino o un ratto, e induco in modo controllato un tumore che vuole essere in qualche modo somigliante a quello che poi domani avrò nel mio paziente, quando faccio tutto l'iter della terapia, quindi dall'iniezione del medicinale all'attesa dell'accumulo, all'irraggiamento e poi al follow up successivo all'irraggiamento stesso, vedo come la terapia effettivamente agisce, quindi se ottengo i risultati che mi sono sperata o se subentrano, proprio perché sono passata alla fase in vivo, delle tossicità o degli effetti secondari che nella fase in vitro non potevo ancora testare, vedere. Per quali tumori potrebbe essere utilizzata? Diciamo che la bellezza di questa terapia, come dicevamo, è la selettività, quindi il fatto che io vado con la precisione della molecola ad uccidere solo le cellule malate, anche quando queste sono disperse in modo estremamente, diciamo, plurimo in un tessuto sano. Quindi qua a Pavia soprattutto l'esperienza che abbiamo sviluppato per questa terapia è indirizzarla verso tumori non localizzati, come ad esempio le metastasi. In bocca al lupo davvero Nicoletta, insomma tienici informati sul risultato e davvero incrociamo le dita, buona ricerca. Grazie davvero, è stato un piacere. Vienna, 1850, un giovane medico di origini ungheresi, Ignaz Semmelweis, lavora in una clinica ostetrica e nota un fatto singolare. Nella clinica ci sono due padiglioni nei quali nascono i bambini. Uno è gestito da ostetriche, nell'altro ci sono anche dei medici. Le morti per febbre puerperali da infezione, quindi nel padiglione delle ostetriche, sono molto inferiori a quelle del padiglione con i medici. Semmelweis si interroga e pensa: cosa fanno i medici che le ostetriche non fanno? Ebbene, i medici praticano anche autopsie. Non è che toccando cadaveri ci si porti appresso qualcosa di mortale. Lui fa lavare le mani ai medici e il tasso di mortalità diventa uguale nei due padiglioni. Prima di Louis Pasteur, Semmelweis scopre empiricamente che ci sono i microbi e che sono mortali. È una delle tante storie raccontate da Massimiano Bucchi nel suo saggio Per un pugno di idee, storie di innovazione che hanno cambiato la nostra vita, edizioni Bompiani. Bucchi insegna scienza, tecnologia e società all'Università di Trento. E allora io te ne racconto un'altra di questa storia di innovazioni che davvero ci hanno cambiato la vita, ed è la mappa della metropolitana, tanto usata appunto da chiunque utilizzi i mezzi pubblici e anche chi si trova a visitare città appunto non conosciute. Ecco, nasce, pensa, nel 1933 con la metropolitana di Londra, che è appunto anche la metro più vecchia, e nasce da un impiegato della società metropolitana che si chiama Harry Beck, in un periodo non di lavoro, ma in un periodo in cui era a casa tranquillo, e ha studiato, diciamo, questa mappa. La mappa ovviamente prima era una mappa della città con dei puntini, potete immaginare confusione nella zona centrale, ecco, della città. Invece Harry Beck cosa fa? Fa quello che noi siamo abituati a vedere anche adesso, cioè traccia delle linee colorate, ogni linea colorata corrisponde a una linea della metropolitana con dei puntini equidistante, che sono le fermate. Ovviamente la parte centrale verrà zoomata, comodamente visibile, così che tutto il percorso sia chiaro, cioè, e ognuno sappia dove scendere e salire. Spazza, ecco, via la mappa vera. Esatto. E ha un disegno astratto. E tu dici, torna in azienda, la presenta e subito viene accolta con successo. No. Gli viene chiusa la porta in faccia, un secco rifiuto, e quindi lui se la rimette in tasca. Poco tempo dopo torna alla ribalta e nel 1933 finalmente decidono di stampargliene qualche copia per sfinimento, e ha un successo clamoroso. Da lì nasce la mappa della metropolitana di Londra, che ora è riprodotta ovunque, su magliette, CD, qualsiasi oggetto di design. E però nasce anche la metropolitana di Milano e così via, la mappa, mappe così, che siamo abituati a conoscere. E pensa che in quella attuale c'è ancora scritto Evolution of the Original Design, cioè l'evoluzione di quel design originale di Harry Beck. Ecco. Restiamo nei trasporti, ma quelli a due ruote. La regina Vittoria nel 1880 sta andando in carrozza quando viene superata sulla destra da una signora con delle belle gonne che pedala su una bicicletta che è una identica a quelle che noi usiamo oggi, cioè con due belle ruote piccolotte. Perché dico piccolotte? Perché allora invece la stragrande maggioranza andava a ruotone, esatto, erano quelle, avete presente, con delle ruote di diametro di 1,5 metri, a volte anche due, una davanti grossa e quella piccolina dietro. Era tremendamente difficile andare sopra, bisogna avere una certa forza, un grande equilibrio, era una roba proprio macista. C'era qualcheduno che aveva fatto delle biciclette piccole, ma si diceva sono robe da donne, c'hanno le gonne e via dicendo. La regina Vittoria dice voglio conoscere quella signora, si incontrano e praticamente la regina promuove la bicicletta che stiamo usando noi finalmente, anche senza gonne, perché è decisamente più comoda, più per comoda, tutto. Certo, anche questa storia è contenuta all'interno del libro Per un pugno di idee, Massimiliano Bucchi, storie di innovazioni che hanno cambiato la nostra vita, edizione Bompiani, buona lettura. Ci si sente qui fra 7 giorni. Eh sì, di corsissima ai saluti. Ciao Federico, buonasera a tutti. A tutte.